piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Sicuramente, da qualunque punto di vista lo vogliate considerare, da qualsiasi ideologia, da qualsiasi pregiudizio, l'unica vera grande novità nella politica degli ultimi mesi è quella del movimento delle sardine. Possono piacervi, potete dire che sono teleguidati, potete dire che è l'unico vero movimento spontaneo, possono starvi antipatici. Comunque, la vera novità sono le sardine. Un gruppo di ragazzi che apparentemente, gradualmente, conquista le piazze d'Italia e si pone come interlocutore potente, perché è forte del consenso comunque della gente che scende in piazza, che ancora non si è tradotto in un voto, anche se in Emilia-Romagna hanno dato comunque un segnale, o perlomeno hanno in qualche maniera corroborato quella che è stata la scelta nell'elezione appunto degli organi di comando della regione. Le sardine naturalmente non possono rimanere un fenomeno a sé, come tutte le novità creano le emulazioni, come tutti i fenomeni comunque a un certo punto dal prototipo cominciano a derivare, a essere declinati in tanti rivoli di ripresa del concetto, ripresa del tema, ripresa anche dell'area emotiva in cui si muove, diciamo, il brand legato alle sardine. Le sardine nuotano in gruppo, nuotano in grandi branchi, amano gli spazi liberi, le sardine vengono denigrate in quanto pesci, pesciolini, ma allo stesso tempo hanno la loro gloria nel fatto di essere piccole ma tantissime, quindi un grande branco di sardine può far paura anche a una balena. Beh, l'avreste mai detto, l'avreste mai immaginato che qualcuno dal movimento Le Sardine abbia pensato di lanciare un movimento chiamato il movimento delle carpe? Bene, parliamo stamattina. Il manifesto delle carpe. 1. Le carpe hanno dai 50 anni in su. 2. Le carpe hanno la coscienza di vivere un benessere economico che i loro genitori mai si sarebbero potuti immaginare. 3. Le carpe non hanno l'ansia di cambiare le cose. 4. Le carpe diffidano da chi si prende troppo sul serio. 5. La vita media degli uomini è 81 anni, delle donne è 83. Le carpe sono consapevoli che se tutto va bene avranno ancora 33 anni di vita. Esempio su carpa femmina di 50 anni. È chiaro che più si alza l'età, più diminuiscono le aspettative di vita. Poi è finita. 6. Le carpe cercano di trascorrere nel migliore dei modi i pochi anni che gli restano ancora da vivere. 7. Finché una carpa ha la salute, male non va. Se comincia a non avere la salute, son cazzi. 8. Dell'orientamento sessuale delle persone, alle carpe non gliene frega niente. 9. Le carpe non programmano il loro futuro. Improvvisano. 10. Le carpe sono consapevoli di vivere all'interno di un universo di 13 miliardi e mezzo di anni e sulla base di questa consapevolezza non si preoccupano quando i media diffondono notizie terrificanti. Avete capito sicuramente dal senso dei primi articoli. Guardate, il manifesto delle carpe sono 32 articoli. Cercherò di farveli ascoltare tutti perché sono significativi del senso delle carpe. La carpa si oppone alla sardina. Innanzitutto le carpe non sono giovani, sono attempati. Hanno da 50 anni in su. Beh, una fetta di popolazione importante in Italia, anzi fondamentale. E giustamente fa ridere che vadano nelle piazze con le sardine residuati bellici di chissà quali movimenti degli anni passati. Le sardine è giusto che manifestino l'idea giovanilista, l'aggregazione dei giovani, la rinascita di uno spirito di partecipazione politica da parte dei giovani, ma i cinquantenni diventino carpe, non sono più sardine, non hanno più il fisico per fare le sardine e quindi devono vivere nel clima delle carpe. Sono coscienti del tiepido benessere che hanno messo assieme, i loro genitori naturalmente, loro stessi hanno 50 anni, ma ancora in qualche maniera vivono nel riflesso o nell'accumulo delle loro famiglie. Non hanno nessun'ansia di cambiare le cose, tutto sommato vivacchiano nelle pieghe del sistema. Le carpe sono sospettose verso chi proclama verità, chi si prende sul serio, chi si considera un interlocutore, anche se nato ieri. Le carpe fanno un calcolo matematico molto semplice. Se la vita media è di 81 anni, loro hanno 50 anni, avranno se no 33 anni di vita lucida, poi magari si rincoglioniscono o muoiono prima. Quindi una cinquantenne è chiaro che deve cominciare a pensare a quello che avrà avanti ancora di brandello di vita vivibile. Quindi quello è importante per loro, perché dopo tutto finisce, visione totalmente razionale e realistica della vita. Le carpe pensano alla salute, sì, parliamo di tutto meno che allo star bene, perché come dicono giustamente, se non c'è la salute sono cazzi, potete fare quello che volete, ma se avete le palpitazioni, se avete la bronchite, l'artrite e se vi fanno male le emorroidi, non è che potete andare in piazza a manifestare, quindi considerate anche la salute. Dell'orientamento sessuale alle carpe non importa niente, perché vanno verso una fase climaterica, quindi sono cose che loro non considerano. Questi altri punti voglio discuterli con lo scopritore del fenomeno degli Umarels, su cui ha scritto vari saggi, ricordo Umarels, Oltre il cantiere, fenomenologia dell'Umarel, è una analisi antropologica del medio italiano pensionato che guarda i cantieri. Costui è Danilo Maso Masotti. Danilo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, qual è il tuo rapporto col movimento Le Carpe? Sei il leader delle carpe, lo scopritore delle carpe, il portavoce delle carpe, o sei semplicemente una carpa? Allora, io sono una carpa e mi sono proposto come leader delle carpe. Ma te le sei inventate te? Le carpe le hai inventate te? Allora, sì, me le sono inventate una sera che stavo riflettendo sul tempo che passa, sull'età che ho e sul fatto che, insomma, che questi anni che mi restano da vivere, che non sono tanti, me li voglio godere nel migliore dei modi e magari non da Umarel, che l'Umarel c'ha tutta la sua parte di lamentela, questa parte di nostalgia paralizzante, questa parte di rifiuto del nuovo. Ecco, invece voglio fare un upgrade di questa figura e dire: bene, allora, io sono un uomo di 52 anni, ho davanti la vita media degli uomini è di 81 anni, quindi bene, mi rimangono sì e no 29 anni da vivere, ovviamente, cioè nella migliore delle ipotesi, quindi sono 29 anni dai 52 agli 81, che dei quali alcuni possono solamente andare peggio, cioè quindi non dobbiamo seguire quello che ci dicono i media, seguire queste cose tipo che ci si saluta, ciao ragazzi, ecco, no, basta con queste cose. Sì, basta anche con le signore anziane col pannolone che mettono la minigonna, basta, sì, con i vecchietti arzilli che col pannolone fanno i salti mortali. Ragazzi, non è che proprio una favola, sì. Potendo uno tornerebbe indietro, diciamo la verità. Esatto, poi cioè, insomma, godersi nel migliore dei modi questi anni, cioè non vedere ad esempio tipo la pensione come chissà quale traguardo, che magari poi non la raggiungeremo neanche mai, e poi che traguardo è, capito? Perché poi cioè, sono dopo la pensione, cioè rimangono... Tu seriamente quindi hai preso un campione di umanità italiana, che è un campione fondamentale, perché il cinquantenne oggi, che nessuno considera come tale, perché da una parte ci sono i giovanissimi, da una parte c'è questa generazione dei quarantenni rampanti, diciamo l'area che si muoveva attorno a Renzi, ma anche l'area poi grillina, sono tutti quarantenni. Però il cinquantenne, che comincia a essere già con un piede nell'età matura, che in fondo è il nerbo portante di questa società, perché se gli Umarel, cioè i già pensionati, sono quelli che fanno cassa e che ancora, diciamo, alimentano la vita decente dei loro figli e dei loro nipoti, il cinquantenne è una persona bene o male inserita nella società, bene o male ha un lavoro, bene o male mantiene una famiglia, bene o male è quello che in fondo è più frequente vedere come medio rappresentante di ogni classe in cui possiamo suddividere la popolazione italiana. Tu hai pensato un movimento parallelo alle sardine, quindi attingendo sempre dall'immaginario ittico, però hai scelto delle carpe. Innanzitutto la scelta del nome. In cosa la carpa si differenzia dalla sardina? Hai fatto uno studio sui pesci? No, non l'ho fatto, ecco. Devo essere sincero, non l'ho fatto. Cioè è così cialtrone questo movimento che nemmeno ha fatto uno studio sul brand? Sì, perché le carpe, cioè, capito, volendosi godere la vita il più possibile, quindi non sta troppo a studiare. Perché andate a pesca con la canna da pesca nei laghetti artificiali e pescate le carpe, per questo. Sì, ma più che altro si rifaceva banalmente al carpe diem. Ah, ecco. Quindi al cogliere, ma carpe diem però senza la sopravvalutazione del carpe diem. capito? Cioè non è, cioè carpe, perché tutti il carpe diem, cogli l'attimo, il film, l'attimo fuggente, queste cose qua sono un po' dei messaggi un po' bolsi, e quindi cioè, le carpe cioè, dicono allora, bene, mi godo quest'attimo, e la carpa si chiede, ma se oggi fosse l'ultimo giorno della mia vita, cioè sarei soddisfatto di questo? Diciamo è una rilettura della cifra esistenziale epicurea, si vive e si gode, si pensa e si immagina in qualche maniera che essendo la vita finita bisogna coglierla nei suoi aspetti quotidiani, quindi è questo. Sentiamo un'altra carpa, visto che il momento è esteso, sennò venne da pensare sia soltanto Masotti. Masotti è un agitatore, è un creatore di idee, l'idea dell'Umarell ha fatto il giro del mondo, è entrata nel dizionario, è stata plagiata, copiata, ripresa, però l'Umarell ormai è diventato internazionalmente il termine, sia che siamo in Giappone, sia che siamo nel profondo dell'Africa, che siamo nella tundra, e sia che siamo nelle montagne dell'Everest, se anche vedete uno sherpa con le mani dietro la schiena che guarda un signore che scava un buco nella neve, è un Umarell che guarda un cantiere. Marinella Balestri, buongiorno. Ah, oh, buongiorno. Anche lei buongiorno, si considera carpa? Certo, certo. Allora, innanzitutto volevo salutare Masotti, che è in studio. Sì. Ho sentito quello che avete detto fino adesso, avete fatto la lettura del programma. Una parte, abbiamo tre parti del programma, l'abbiamo diviso. La prima parte analizziamo sull'età anagrafica. Ora, per una donna è un dichiarare naturalmente la sua anagrafe schiettamente, lei per forza ha più di 50 anni. Beh sì, l'età esatta a una signora non si chiede, comunque diciamo dai 50 ai 60, sono un po' più grandina di Masotti. Beh, se sei carpa, se è carpa lei, mi certo. Scusi, deve aver per forza 50 anni, se no era sardina, certo, mi faccia certo. Capire. No, però sono un po' più grande di Masotti. Quali sono gli elementi che portano una donna ad aderire al movimento delle carpe? Ci sono degli elementi? Allora, innanzitutto ho aderito perché sono iscritta al gruppo Blog Bar per Anziani, sì, di Masotti. Che poi siamo i vecchi, perché dopo i 50-60, come avete detto voi, rimangono una ventina di anni buoni, no? Beh, veramente ne rimangono 33. 33 ne rimangono, secondo le statistiche. Vabbè, secondo me un po' meno, perché le medie matematiche le sappiamo come sono, no? Non calcolano quelli che campano fino a 104 anni, fino a 90, che sono tanti, no? Quindi, diciamo, essere ottimisti, va bene, facciamo una trentina d'anni. Dunque, niente, il discorso secondo me, la prima cosa fondamentale è che a raggiunta quest'età nessuno ti deve rompere le scatole, bisogna mettere dei gran paletti ai figli, ai mariti, alle mogli, a tutti. Cioè, questo diciamo è l'atteggiamento dell'ala femminile del movimento delle carpe. Ma non lo so se è solo femminile, questa è la mia. Vabbè, comunque lei si fa portavoce in questo momento, è una grossa responsabilità, le signore carpe o anche signorine carpe, perché ci saranno certo. Anche delle carpe single, certo, diffuso. Certo. Ecco, prima cosa, non ci dovete rompere le scatole. Certo, questo. Cioè, dei gran paletti bisogna mettere, no? Sì. Poi noi comunque siamo per lo status quo, cioè le novità ci disturbano, non so come dire, no? Quindi siamo il movimento bene... è un movimento conservatore? Certo, certo, da un certo punto di vista sì, ma non del tutto però, non del tutto. Ma anche però, sovranista, vi considerate sovranisti, mi scusi, Marinella? No, Carpa. No, assolutamente, no, no, no. Cosa no, siete, no. Localisti, strapaesani, alla fine è il vostro condominio. Strapaesone, siamo strapaesone, sì, Bologna è un paesone, lo sappiamo tutti. Parte no? Da Bologna, capito, come le sardine certo, d'altronde. Tutto parte da Bologna, cioè da Bologna è partita la svolta, giusto? Certo. Della Bolognina. È fondamentale questa sì. Cosa. Poi dopo, dunque, ci sono state, c'è stati Vaffa con Grillo. Certo, la Bologna, giustamente. E poi ci sono state le sardine. E ora le carpe, e ora le carpe. E adesso ci sono le carpe. Quindi da questo si dimostra, cioè, è una dimostrazione no, fondamentale che nasce tutto da qua, nel brodo primordiale di Bologna. Diciamo che è una feconda terra scaturigine di tutte le novità, i movimenti che movimentano, che in qualche maniera danno fluidità alla staticità politica. Un altro punto. Nel rapporto fra carpe maschie e carpe femmine, che è stato il primo motivo di critica verso le sardine, sono tutti uomini, le donne sono in minoranza. I posti, avete una linea gerarchica, come vi gestite? Come le sardine, totale orizzontalità con dei portavoce o fra di voi ci sono delle gerarchie? In queste gerarchie sono rispettate le quote, non voglio dire le quote rosa perché le carpe sono tutte grigie, comunque le quote femminili, ecco, di genere femminile. Ma io non ho mai avuto questo problema in vita mia, né con le carte né in altri movimenti, cioè non è la prima volta che mi approccio a un movimento, vengo da l'onda lunga del 68, quindi ne so qualcosa, per cui non ho mai avuto questo problema. Secondo me, se tu hai qualcosa da dire, lo puoi dire, sia che sei donna che sei uomo, non cambia niente. Diciamo che la figura tipica, classica, legata all'Umarel che la sdaura, in questo caso crea la giusta armonia nel rapporto fra uomo e donna, in quella che è la composizione classica della diade Umarel sdaura, in cui l'Umarel è sempre il maschio di casa, ma in realtà comanda la sdaura, quindi i poteri sono divisi in maniera equanime. Ci fermiamo soltanto un istante. Melog. Stiamo tenendo a battesimo, ne sono divertito allo stesso tempo lusingato, un nuovo movimento di cui ancora non si parla molto, ma devo dire che il luogo di origine è lo stesso delle sardine, della bolognina, del vaffa di Grillo, quindi è un luogo da cui tradizionalmente emergono delle novità nel campo della discussione politica. È il movimento delle carpe, parte dallo stesso luogo geografico da cui sono partite le sardine. Si fa sempre riferimento comunque a un immaginario ittico, la carpa è un pesce come la sardina, però con una lieve differenza. Mentre la sardina è un movimento guizzante, giovanile, innovatore, che vuole segnare una differenza con il passato, la carpa tende più a conservare ciò che c'è di tiepidamente confortante nel passato. La carpa è formata da persone che hanno 50 anni, quindi l'asse centrale dell'economia, del lavoro, della società italiana. La carpa è ben attaccata ai pochi e faticosi privilegi che si è conquistata. Vuole vivere tranquillamente, serenamente, non vuole rotture di scatole. Fa i conti a ritroso con gli anni che rimangono ancora di vita lucida. E dice la carpa: fatemeli vivere in pace. Andiamo avanti con la seconda parte dell'articolato manifesto delle carpe, che sono ben 32 punti. 11. Le carpe hanno fiducia nel futuro dei più giovani, i cosiddetti undercarpa, e non li ostacolano con frasi mortifere. Li lasciano fare. 12. Le carpe evitano di utilizzare termini inglesi per apparire più fighi, che in inglese sarebbe cool. 13. Le carpe non vanno in piazza per sostenere un partito o un candidato presidente di qualcosa. Ogni carpa vota quello che gli pare o non va a votare. 14. Alle carpe non ci si tessera. Basta affermare «Io sono una carpa» e gli altri capiscono. 15. La carpa non è nostalgica del Novecento. 16. La carpa nel Novecento si è divertita, perché nel Novecento era più giovane e c'era anche la lira. 17. La carpa ha vissuto per almeno 35 anni della propria vita senza avere in tasca un telefono computer, in inglese smartphone, e si bea di questo, ma non crede che prima si stesse meglio. 18. La carpa da giovane faceva cagare, nel senso buono del termine, e consapevole di questo non critica i giovani che per la loro natura devono far cagare, nel senso buono del termine, altrimenti che giovani sono? 19. La carpa considera frasi come «Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo» una gran cazzata. 20. Le carpe non si preoccupano del futuro, visto che potrebbe essere brevissimo. Eccoci, abbiamo fatto ascoltare un altro passo del manifesto delle carpe in cui viene messo appunto a fuoco in maniera più decisa quello che è il portato ideologico delle carpe, che è molto semplice, riconducibile a una accanita ma giustificabile volontà di conservare almeno quello che si ha, senza metterlo in dubbio, senza rischiarlo, senza giocarselo in un gioco di azzardo. Abbiamo sentito Danilo Masomasotti, può essere considerato il fondatore delle carpe. Vuoi aggiungere qualcosa, Danilo, a questa seconda parte del vostro manifesto, che è quella che si rivolge ai giovani? È l'atteggiamento verso i giovani. Qualcuno direbbe un atteggiamento paternalistico, mi sembra invece comprensivo, diciamo, della loro giovane età. Quindi siete ragazzini, se anche siete cazzoni, fa parte del modo d'essere attraverso cui siamo passati tutti. Esatto, dice, cioè, siamo stati giovani, quindi è giusto che i giovani facciano la loro esperienza, non dico neanche gli, non dico gli sbagli, è giusto che facciano, e la carpa è giusto che continui la sua vita. Altra cosa importante della carpa è che è un movimento contemporaneo. Siccome la carpa ha avuto una grossa fetta della propria vita, possiamo definirla analogica, la carpa si gode questo passato e si gode questo presente, che molto spesso reputa migliore del passato analogico, cioè quindi la tecnologia. Adesso però c'è un punto che mi interessa molto. Uno dei campi di forza delle sardine è stato dire, ad esempio nella loro contrapposizione alla bestia di Salvini, voi avete speso tanti soldi per fare un mezzo, diciamo, di propaganda potente nei social, come appunto la bestia. Noi in tre giorni abbiamo organizzato dei movimenti di piazza che vi hanno surclassato, quindi grande capacità di agire e muoversi nei social. Ecco, la carpa, e questo lo domando a Cecilia Sabbadini, che ha una forma, rispetto a Masotti, che nella vita non ha mai fatto un cazzo dal punto di vista politico, ha una solida formazione politica, diciamo, è passata attraverso varie esperienze. Come si pone la carpa nei confronti dei cosiddetti nuovi media, che poi hanno 30 anni, niente hanno di nuovo? Le carpe agiranno nei social, hanno una vita social, si contrapporranno con i social, con gli altri movimenti, hanno degli antagonisti, soprattutto le carpe? Dunque, le carpe è un grossissimo movimento che secondo me, come si può dire, parte da una base molto buona. Sì, ma usate il citofono per parlare o usate i social? Questo mi interessa. No, usiamo anche noi i social. Questo mi interessa. Anche se siamo over 50, purtroppo siamo nella parte dei social. Però mi piace molto, ho aderito a questo gruppo delle carpe, perché la cosa che mi piace di più è proprio questo, il fatto che un over 50enne può vivere fregandosene un po' di tutto, cioè vivendo un po' la giornata. Ma scusami Cecilia, non entrate in quell'area limacciosa detta del buongiornissimo caffè, cioè i cinquantenni che usano i social ma non hanno ben capito e compreso quella che è la qualità della relazione attraverso i social, e li usano come si usa, che ne so, una chiacchiera con gli amici la mattina, buongiornissimo caffè, pulizia contatti. È questo che deve fare la carpa, cioè deve distogliere i cinquantenni e facendogli vivere più la vita, come si può dire, come dice Masotti, no? La carpa fondamentalmente se ne frega di tutto, di tutti, e vive serenamente, cioè vive senza fregarsene, e quindi anche il discorso social, che porta sempre a litigare, porta anche, perché i giovani poi non ci sono più, no? Per esempio i Facebook si sono tolti. Cioè, sono tutti vecchi, ormai Facebook sono tutti ormai vecchi. Ormai Facebook sì. È diventato dei vecchi, però i vecchi alla fine diventano, nel discorso social diventano, come dicono i giovani, dei ridicoli. Sì, diventa come quel famoso telefilm di Black Mirror, San Giupitero, in cui creano l'ambiente virtuale in cui tutti i vecchietti rivanno nelle loro discoteche rock degli esatto. anni 50 e 60 e vivono felicemente una vita fittizia. Perché stiamo facendo questa figura nei social, che effettivamente se uno si distoglie un pochettino dal discorso e guarda dal di fuori, i cinquantenni sono ridicoli molto nei social. Quindi un'operazione diciamo di decostruzione della dimensione digitale del medio anziano per riportarlo ai piaceri della vita esatto, concreta. Esatto, questo deve fare la carpa. La carpa deve vivere la vita come effettivamente un cinquantenne deve fare, cioè molto cogli l'attimo, esattamente, vivi oppure vivi e lascia vivere, non criticare, non giudicare, non trattare, dire male dei giovani. Ecco, e soprattutto senso di comprensione verso i giovani, perché diciamo il maggior movimento ideologico antagonista delle sardine li prende in giro, li tratta come dei ragazzetti, dei poveri stupidi, degli ingenui. Voi avete un atteggiamento molto più comprensivo e filosofico. Capiamo che siamo giovani, non ci contrapponiamo con loro. Ecco, lo fa una domanda a un'altra carpa, Riccardo Paccosi, buongiorno. Buongiorno. Allora, quello che mi interessa a questo punto è il vostro rapporto con le forze politiche che perlomeno hanno una struttura simile alla vostra. Come vi ponete voi bolognesi nei confronti delle sardine, anche loro nate a Bologna? Ma guarda, non è che ci si contrappone ai giovani, noi cinquantenni che aderiamo al movimento delle carpe, però insomma pure ultimamente questa narrazione mediatica secondo cui i giovani hanno sempre ragione, allora esce fuori il movimento Fridays for Future di Greta e quindi che ha ragione perché porta i teenager in piazza, arrivano le sardine e hanno ragione perché sono giovani, insomma anche un po' due scatole, ecco, direi che insomma sembra quasi che ma mi sembra che scusami dominano lo spazio immaginario soltanto loro, mentre invece noi insomma, e poi hanno troppa voglia di cambiamento, che è, che è pericoloso per voi, il cambiamento è pericoloso, leggo nel vostro articolo 10, perdonami, siete consapevoli di vivere all'interno di un universo di 13 miliardi e mezzo di anni, su questa consapevolezza non è che ci facciamo poi tanti problemi, se sono vissuti 13 milioni e mezzo di anni, altri 33 anni che per noi è il massimo di vita percepibile, può continuare a vivere. Quest'ansia qua del cambiamento, anche perché parliamoci chiaro, non è che ci sono in vista dei cambiamenti per cui deve aumentare il benessere pro capite e il lavoro per tutti e roba del genere, no? Quindi allora tutta quest'ansia c'è proprio motivo, quindi sì, noi ci godiamo il nostro bel digital divide, non siamo riusciti mai a costruire un movimento in due giorni come quello delle sardine attraverso la cosa telematica e utilizziamo Facebook per trovare degli spazi di perdita di tempo, di tempo dilatato, di tempo rarefatto, che è quello che invece, dovendo purtroppo lavorare, tende a esserci sempre meno. Quindi diciamo che il vostro punto di ambizione massimo, il benessere sociale che vi augurate, non voglio dire che non voglio contraddire quello che aveva detto Masotti, arrivare alla augurabile età della pensione, ma un'età in cui perlomeno non hai preoccupazioni, non hai angosce, appunto puoi prendere la canna da pesca e andare a pescare tu carpa, le carpe che hanno il privilegio di guazzare nello stagno, anzi nel laghetto artificiale a pagamento in cui si paga e si pesca. Ci fermiamo ancora un istante. Melog. Sono arrivato alla terza fondamentale parte del manifesto delle carpe. Più ascolto le carpe che mi parlano con naturalezza, senza bisogno di dover per forza fare belle figure, di mettersi in mostra. Non fanno altro che esporre e declinare quello che è il quieto vivere tranquillo, in parvo vivere tranquillo. Si accontentano del circondario a loro destinato per nascita. Vorrebbero non avere grandi problemi, godersi per quello che possono godersi la vita, quei piccoli, modesti e succosi piaceri della vita. Non vorrebbero avere problemi con nessuno, essere nemici di nessuno, non hanno nessuno che li sta antipatico, se non quelli che mettono a repentaglio la loro tranquillità, la loro sicurezza, la loro certezza che se l'universo esiste da 13 miliardi e mezzo di anni, continuerà ancora a vivere tranquillamente quei 30 anni scarsi che a loro resta da vivere. 21. Le carpe si sono già riprodotte o non si riprodurranno mai più. 22. Se d'inverno fa caldo, la carpa è felice e non si preoccupa. 23. Le carpe non hanno paura di niente. Alcune hanno paura solo della morte che si avvicina, altre no. 24. Le carpe non sono livorose. Diciamo che non gliene frega un cazzo. 25. Le carpe hanno tantissimo tempo a loro disposizione. Di solito quelli che hanno avuto un'educazione triste, come si usava nel Novecento, dicono di essere sempre indaffarati, ma non è vero. 26. Oltre gli 81 anni, gli uomini, e 83 anni, le donne, diventi automaticamente un pesce vecchio o una pescia vecchia e per i pochi anni che ti restano da vivere cessi di essere carpa. Sei fuori. 27. Le carpe non odiano nessuno. 28. Le carpe fanno sport o non lo fanno. 29. Le carpe, quando si mettono sul divano a guardare un film, si addormentano. 30. Carpe non si nasce, lo si diventa a 50 anni. 31. La bevanda ufficiale delle carpe è il Carpenè Malvolti. 32. Le carpe chiedono solo di essere lasciate in pace e soprattutto di non essere prese per il culo. Diciamo che questa è la parte più intensa, quella in cui gli articoli del manifesto delle carpe diventano delle erme bifronti, delle massime che hanno una duplice lettura, l'una verso l'esterno, di dichiarare in maniera inequivocabile un punto di vista e l'una da interiorizzare, per fare i conti con se stessi, per dire non ci prendiamo in giro con noi stessi, alla fine cosa vogliamo noi, cosa ci interessa noi? La pace nel mondo, l'omologazione di tutte le etnie, la giustizia, abbiamo pure il riscaldamento globale, o noi ci interessa soltanto di rimanere al calduccio finché ancora avremo percezione di questo calduccio? Danilo Masomasotti, un tuo ultimo commento in quanto leader e fondatore delle Carpe su questa ultima parte che è drastica, è quella legata proprio al contemptus mundi, al disprezzo del mondo. Manca un punto fondamentale, perché comunque questo programma è in progress, quindi si potranno aggiungere anche degli altri punti più avanti. E la carpa, avendo già 50 anni, ha già figliato o non ha figliato? C'è già scritto, l'abbiamo appena letto. Esatto, sì. Non ricordavo se c'era questo. Sì, sì, punto, è già stato introdotto. Questo, è la nuova versione, diciamo io, la nuova versione del vostro manifesto. E questo è un punto fondamentale, perché mentre le sardine hanno tutta questa tensione al futuro, oddio come sarà la mia vita, come sarà la carpa, ha già dato la carpa, ha già dato, nel senso, anche se è lì che nuota, che comunque i figli quando li fai ci sono e li devi crescere, comunque ha già dato. E chi non ha dato è difficile che dia ancora. Chi non ha dato non ha dato, e quindi ci si trova in questa condizione, che secondo me è questa che fa un po' la differenza. Adesso però Danilo introduco un elemento che veramente è la singolarità e l'unicità delle carpe. Annabella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tu sei una carpa a tutti gli effetti. Sì, nonostante l'età, perché ecco, in realtà ho 35 anni, ecco, non sono ancora arrivata all'età. Diciamo, tu hai ancora 15 anni per diventare carpa, hai 35 anni. Come mai ti sei carpizzata? Perché questo è il dato nuovo. Mentre nelle sardine, come movimento giovanilista, si vedono ancora i vecchi marpioni post-sessantottini che vanno lì con la coda di cavallo bianca e tengono il pugno alzato e si sentono giovani, le carpe con movimento di pantere grigie, perché sono pantere, ma che pantere, di gattoni castrati grigi da caminetto, come mai attirano i giovani? Tu hai 35 anni, potresti ancora felicemente dirti pesce di tutti i pesci, in realtà sei fatta carpa, come mai? Ma in realtà perché penso che la crisi che normalmente arriva intorno ai 50 anni, mi è arrivata che ne avevo 18, 17, una cosa del genere, quindi forse ci ho lavorato un po' prima, e poi in realtà bisognerebbe carpizzarsi prima, da giovani, perché aspettare i 50 anni, no? Prima di arrivare a cercare di trascorrere nel migliore dei modi la vita che abbiamo ancora davanti, perché effettivamente, come dice il manifesto delle carpe, noi non lo sappiamo quanto tempo abbiamo in realtà. Ma c'è un'età minima per la carpizzazione? Ma non lo so, forse nei momenti in cui, ma chissà, forse anche i bimbi, perché anche i bimbi piccoli intorno ai 5-6 anni iniziano a farsi tante domande, dicono ma chi siamo, perché siamo qui, che senso hanno. Annabella, ti farò una domanda che sembrerà cattiva, ma devo fartela. Penso che una ragazza di 35 anni si carpizza, c'è probabilmente un recondito complesso di Edipo, vai cercando uomini più anziani perché quelli ti attirano? Perché mio marito è più giovane. È più giovane? No. Hai un marito più giovane? Ah, perfetto. Ho un marito più giovane, di 3 anni più giovane. Quindi non c'è nemmeno il dubbio che tu possa essere attirata da una sorta di piacere della senescenza, di gerontofilia. No, tu sei capo e capisci che in realtà è un pensiero che veramente in qualche maniera riverbera quella che è l'istanza più potente della contemporaneità. Auguri alle carpe, navigate felici, nuotate felici, quando incontrerete le sardine mi direte in quale frittura mista, poi finirete tutti assieme. Alla prossima.